Papirulam, tu corri all'infinito ma resti fermo. Giriamo in tondo negli uffici, nei bar, come cricetti dentro ruote di ferro. Fermate questo giro tondo, prima di toccare il fondo. Fermate questo giro tondo, prima che caschi tutto il mondo. Gira la ruota, gira senza sosta, e c'è chi vince, c'è chi perde la testa. Per aumentare il ritmo aumenta la posta, e se non giochi tu sei fuori dalla festa. Fermate questo giro tondo, prima di toccare il fondo. Fermate questo giro tondo, prima che caschi tutto il mondo. Giro tondo, prima di toccare il fuoco.